così, come non avrei voluto mai. Sai, credo da un po' in te perché tu sei tu. Sorridere ora che so cosa sei.